La ragione per cui mi piace così tanto il meteo è che si tratta di un modo garbato per provare a immaginare come sarà domani la mia vita. E quindi di illudermi che se la temperatura sarà primaverile, allora la giornata sarà piacevole, mentre se pioverà, io riuscirò ad essere più forte della natura e caverò fuori qualcosa di buono, anche in un orribile pomeriggio invernale. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Non ci credi, non ci credi e fai di tutto per continuare a non crederci. Sei di quelle persone che pensa che ognuno sia responsabile di quello che fa e che ottiene. Non c'è nessuno sopra o sotto di te che decida il posto tuo. Se sbagli, impari. Se fai un errore, troverai un rimedio. Quando vinci, vinci per merito tuo. Quando perdi, pensi che tornerai a vincere prima o poi. Non ti piacciono i consigli, perché vengono da qualche parte del passato e immaginano chissà cosa in quale futuro. Non preghi, non adori, non giochi d'azzardo e non scommetti su nulla a meno che non ci sia tu di mezzo. Tu che sai come andrà a finire, anzi, che sai come la farai andare a finire. Non ascolti gli amici che ti fanno i tarocchi o gli indovini che predicono il futuro. Eviti le zingare, quelle che leggono le mani, o i maghi che parlano alla televisione. Le uniche previsioni che segui sono quelle del tempo. Pioverà, sarà seren, se non sarà seren, si rasserenerà. Poi un giorno nella tua vita capita una cosa che ti stupisce. Qualcosa che non rientra nell'ordine delle cose o nell'ordine che tu avevi dato a quelle cose. Qualcosa che semplicemente non avevi immaginato. E la cosa strana è che quella cosa ti sembra di riconoscerla. Cioè ti sembra di averla già vissuta o magari solo ascoltata da qualche parte qualche tempo prima. E allora ti viene in mente quel tizio, di cui non ricordi bene il viso, figuriamoci il nome, che te l'aveva predetto. Boh, forse non era un tizio, forse era una signora incontrata in un bar che ti ha guardato in faccia e ti ha detto che le cose si sarebbero aggiustate. O forse era l'amico di un amico che ti ha consigliato di fare una cosa piuttosto che un'altra. Insomma, non è che da quel momento ti convinci che esista un destino o un disegno più grande, ma non puoi fare a meno di ammettere che sì, qualcuno te lo aveva predetto. 800240024 349-238-6666. Io ho una passione per le previsioni del tempo, ma è l'unica passione che provo per qualsiasi cosa prevede nel futuro. È credo sia appunto una forma di un certo modo per provare a tenere le cose sotto controllo. Visto che non credo nelle previsioni, non credo nei tarocchi, non credo nelle preveggenze, anche se mi è già capitato di ammettere effettivamente quella cosa lì me l'aveva predetta. 800240024 349-238-6666. Provate a pensarci un attimo anche voi, vi sarà sicuramente capitato che vi è venuta in mente un'amica che vi aveva detto: guarda, ho la sensazione che se vai in vacanza con quei due lì la vacanza sarà un disastro. Oppure un amico che aveva detto: sono sicuro che, perché ti conosco, perché lo so che tu entro quest'anno troverai lavoro. Oppure no, magari, ecco, facciamo così. Oppure magari qualcuno che si è veramente seduto a uno di quei tavolini da campeggio che gli indovini mettono di solito nelle città di vacanza o d'estate, no, in riva al mare, e ti fanno i tarocchi oppure ti leggono la mano. Io non l'ho mai fatto, ma se l'avete fatto, ma soprattutto se ci hanno azzeccato, solo in quel caso, 800240024 349-238-6666. Non parlo però di robe tipo la tua vita migliorerà. No, no, tipo in 6 mesi rimarrai incinta. Oppure l'anno prossimo troverai la casa giusta. Cose precise, cose che quando vi sono accadute vi siete accorti che sì, qualcuno ve l'aveva detto. Nel 1976 un indovino cinese avverte Tiziano Terzani che allora era in giro per l'Asia, faceva il corrispondente per lo Spiegel, gli disse: attento, nel 1993 corri un gran rischio di morire, in quell'anno non volare mai. Era il 1976, Tiziano Terzani faceva il giornalista, era un corrispondente, quindi di fatto per mestiere prendeva aerei e andava in giro per il mondo. Passano 16 anni e nel 1992 lui si ricorda di questo indovino cinese che gli dice: nel 93 non prendere mai un aereo. E lui trasforma questa sorta di maledizione in un'opportunità e decide che girerà per tutto l'anno, girerà il mondo andando in giro solo con treni e aerei, treni, navi, cavalli, automobili, insomma non prenderà mai un aereo e un elicottero. Scriverà un libro che si chiama Un indovino mi disse, e nel primo capitolo, all'inizio del primo capitolo, che si chiama Benedetta maledizione, Terzani scrive: di fatto la profezia era una scusa. La verità è che uno a 55 anni ha una gran voglia di aggiungere un pizzico di poesia alla propria vita, di guardare il mondo con occhi nuovi, di rileggere i classici, di riscoprire che il sole sorge, che in cielo c'è la luna e che il tempo non è solo quello scandito dagli orologi. Questa era la mia occasione e non potevo lasciarmela scappare. Di nuovo 800240024 349 238 6666. Vi faccio qualche esempio che è arrivato prima sul profilo Facebook del programma. Chiara mi scrive: quando ero adolescente litigavo con mio papà, lui diceva che mi sarebbe capitato uno più testone di lui, la maledizione si è avverata, il mio bambino è uguale a lui in tutto e per tutto, solo più testone. E poi Luisa invece mi scrive un messaggio che è molto preciso. La mattina della prima prova dell'esame di maturità entro nel bar di fronte al liceo per comprare i pocket coffee. Ci dice proprio tutto. Il barista mi dice qualcosa tipo: hai paura, eh? Una donna lì accanto mi guarda mentre scambio battute con lui e prima di uscire si avvicina e con un sorriso mi fa: hai lo sguardo molto intelligente, non avere paura, andrà bene. Mi impressionò il tono sicuro con cui diceva quella parola ad una sconosciuta. La ritrovai pochi minuti dopo dall'altra parte dei banchi. Era la commissaria esterna e alla fine presi il massimo dei voti. 800240024, ve ne leggo un altro? Francesca, il primo anno di asilo nido di mia figlia, la mia migliore amica, predice con un'esasperante precisione: guarda, si farà 4 giorni all'asilo e poi 2 settimane a casa. Butterai via tutta la retta nel cestino e l'intera famiglia sarà a letto per un anno. Non ha mancato un colpo. 349-238-6666 oppure il solito, al numero verde 800240024. La mia previsione, mancata direi, è andata così. E poi, domenica, io sono partito. Natalie invece si è fermata in montagna. Io non ho voluto sapere se aspettava qualcuno, se sarebbe rimasta da sola per tutto il ponte o cosa. Io dovevo tornare a Milano. Mentre lei mi ha detto: guarda, io rimango qui ancora qualche giorno. Mi sono fatto la borsa, l'ho caricata in macchina e l'ho salutata con un bacio appena accennato, di quelli che non stai a pensarci, altrimenti rischi di non partire più. E poi, mentre salivo in auto, lei mi ha chiesto: Matteo, ce l'hai le catene in auto? E io lì ho risposto con la frase che uso sempre quando mi fanno questa domanda, che è: guarda, se nevica al punto che servono le catene, conviene starsene a casa. È una risposta stupida, che utilizzo solo perché non so mai come giustificare la mia insulsaggine. Che poi non è così vero che io non ho mai le catene. Nel garage di casa dei miei ce n'è a bizzeffe. È solo che ho sempre le catene giuste per le gomme delle macchine vecchie, quelle che ho avuto e che non ho più. E quindi in fondo è come non avercele. Ah, tra l'altro poi io quelle buone per quest'auto qui le ho vendute nel programma dell'anno scorso. Insomma, le ho fatto un sorriso del tipo: non ti preoccupare, è tutto sotto controllo. E sono partito. E mentre partivo mi accorgevo che, a differenza di quanto succede abitualmente, non avevo controllato il meteo. È una cosa che faccio sempre, anche prima di stendere i panni, la faccio compulsivamente fino a 7 volte al giorno. E invece, questa volta qua, domenica, sarà stata la fretta, sarà stata Natalie, ma alla fine non le avevo controllate per niente. Dopo 5 minuti iniziava a nevicare forte. Che non so nemmeno se si dica nevicare forte, però non saprei come altro definire la bufera di neve che si è abbattuta sull'autostrada. Il cielo si è fatto improvvisamente arancione. Hanno cominciato a cadere sti fiocchi di neve grandi come una moneta da 2 euro. La strada in meno di 15 minuti si è fatta completamente bianca e le macchine con le ruote lasciavano delle lunghe strisce nere che io cercavo di seguire lentamente. 2 camper si sono fermati sotto un ponte e si sono accampati per la notte. Eravamo tutti in coda e procedevamo con grande cautela. Poi l'auto che mi precedeva ha frenato all'improvviso e io pure, solo che la macchina non si è fermata, anzi si è girata appena sul lato destro e si è messa a muoversi così, di traverso. Io intanto da solo in auto fingevo tranquillità, ma non c'era proprio niente da stare tranquilli. Mi sono fermato a 2 dita da quello di fronte. Ho messo la prima per ripartire, ma le gomme slittavano e la macchina proprio non si muoveva. Poi la fila davanti a me è ripartita e piano piano sono riuscito a farlo pure io. Il volante ha iniziato a girare con grande facilità, come se i pneumatici fossero di gomma piuma. fatto è che anche un principiante di quelli con la P grossa sull'1.8 capirebbe che anche se è una sensazione piacevole, non è per niente una bella notizia. Perché la macchina, quando è così, va un po' dove vuole lei. Mentre procedevo sulla sinistra, un furgone si è schiantato contro il guardrail. Nessuno si è fatto male, ma il cofano era sfondato. E la neve non accennava a smettere di cadere. Ho spento la radio e ho guardato l'orologio dell'auto. Erano le 11 di domenica sera. Ero partito alle 5 e sarei dovuto essere a casa almeno 3 ore prima. Ormai erano 4 ore che ero fermo sull'autostrada. Ogni tanto azionavo i tergicristalli per poter guardare fuori. La neve copriva tutto: le auto, la strada, le montagne intorno. A un certo punto ho sentito bussare a un finestrino e improvvisamente mi sono sentito come Steve Buscemi in Fargo. Non vedevo niente, perché la macchina era coperta di neve. Ho abbassato il cristallo ed è apparso un signore vestito di arancione, imbacuccato come uno yeti. Teneva in mano un termos e mi ha chiesto se volevo un po' di tè caldo. Mentre me lo versava in un bicchiere di plastica, gli ho chiesto quanto ci saremmo stati ancora lì quando saremmo mossi. E lui mi ha risposto con un sorriso, mi ha detto «Mi sa che per stanotte sia meglio che si rassegni a rimanere qui. Adesso però le porto delle coperte». Sono rimasto per un attimo bloccato, con il finestrino aperto e la neve che mi cadeva sulla gamba e sul braccio sinistro. E poi ho pensato che forse non sarei riuscito ad arrivare in tempo alla radio, per la diretta. E che se ci fosse stata Natalie sarebbe stato molto romantico. Poi ho tirato sul finestrino e ho acceso la radio. Continua a nevicare nel nord dell'Italia e i disagi per la circolazione sono tanti. Neve su tutte le autostrade del nord-est, disagi nella circolazione stradale e scuole chiuse. Anche in Liguria sono annunciate altre nevicate e la protezione civile è in allerta. A Milano gli autobus non riescono a circolare nella neve e si formano lunghe code di veicoli in difficoltà. Mi piacciono gli esperti. Ma quelli veri, non quelli che fanno finta o che sono esperti un po' di tutto. A me piacciono gli esperti che vengono interpellati quando serve e loro parlano di quello e basta. Non è che commentano l'ultima notizia o la situazione politica, no, solo quello. E tra tutti gli esperti, i miei preferiti sono i meteorologi. Mentre ero bloccato in auto con la neve, ne ho sentito uno che raccontava del clima e della gente. Raccontava del maltempo e dell'imperizia degli automobilisti, che si mettono in strada nonostante gli avvertimenti. Diceva che gli uomini oggi si sentono onnipotenti, che la TV, il cinema, gli spot propinano solo storie di gente che sfida i propri limiti, e quindi non ci spaventa più niente. Diceva che siamo convinti che il mondo giri intorno a noi, che le vittime di cui sentiamo parlare o che leggiamo sono sempre causate dall'imprudenza e non dalle condizioni impraticabili. E poi ha fatto un discorso molto interessante sul fatto che non siamo più abituati a stare a contatto con l'aria aperta, con il freddo o con il caldo. Lui sosteneva che l'aria condizionata in estate o il riscaldamento in inverno, sempre, dappertutto, in casa, in ufficio, in auto, creano come un microclima costante che ci fa perdere il contatto con la realtà e ci impedisce di capire che se fa troppo caldo o se fa troppo freddo, è meglio starsene a casa. Io non lo so da dove mi arrivi questa mania per il meteo. Non lo so, perché tutti i giorni io faccio una ricerca incrociata su almeno 3 siti diversi. Non lo so perché sia così affascinato dalle carte sinottiche, dallo spostamento delle isobare, dalle misurazioni dell'umidità dell'aria e della temperatura per valutare se è in arrivo un'alta o una bassa pressione. Non lo so. Non capisco da dove arrivi questa cosa che mi porta a conoscere un fronte caldo o un fronte freddo. Sapere che quando si uniscono creano un fronte occluso, non lo so. Credo che abbia a che fare con una mania di controllo del proprio destino. Non posso prevedere il futuro. Non credo ai tarocchi, alla lettura delle mani. L'oroscopo lo leggo ogni tanto come se fosse un piccolo racconto, quindi non posso sapere che cosa mi accadrà domani. O meglio, non lo voglio sapere. Ecco cos'è. Non lo voglio sapere perché sono sempre convinto di essere l'unico da cui quel futuro dipenda. E quindi, per quanto sia infantile, io non voglio intaccare questa mia convinzione. E mi lascio un'unica finestra aperta sul futuro. Le previsioni del tempo. Sì. Credo che sia proprio questa la ragione per cui mi piace così tanto il meteo. perché è un modo garbato per provare a immaginare come sarà domani la mia vita, se pioverà o ci sarà il sole, se potrò stendere i panni sul balcone o attraversare il Mediterraneo. E mi illudo che se la temperatura sarà primaverile, allora la giornata sarà piacevole, mentre se pioverà o ci sarà la nebbia, io sarò più forte della natura e riuscirò a cavare fuori comunque qualcosa di buono, anche in un orribile pomeriggio invernale. Che detto così sembra veramente una boiata, però, secondo me, se si cerca di prevedere qualcosa, una ragione ci deve essere. (800) 0024 0024 349 238 6666. Innanzitutto speriamo che la calandra stia bene, perché prima l'abbiamo sentita in mezzo al casino, eppure è scoppiato un botto. E tutto comunque, che poi in realtà alle 5 comincia un'opera, no? Di fatto quello succede oggi. Però, ma avremo alle 5 ne sappiamo di più. E invece continuano a scrivermi riguardo a... Mi scrivono quelli, non solo quelli a cui hanno previsto qualcosa, ma quelli che si spacciano per essere quelli che prevedono. Non so se avete presente, ce ne sono di quelli che ti dicono: guarda, io sono un po' sensitivo, io certe cose le sento. Vi faccio un esempio, Claudio: più spesso mi è capitato il contrario. Ho sempre avuto conferme affidabili, anche se la persona direttamente interessata non ha mai confessato. Quindi lui è uno di quelli che predice. Daniele: vale anche se il preveggente sono io? Ovviamente sì, si tratta di intuizioni improvvise seguite dalla necessità irrefrenabile di comunicarle. 800240024, se siete tra quelli, se siete tra quelli che predicono, va bene, così mi dite anche esattamente che cosa si sente, che cosa vuol dire sai com'è, me lo sento. Terzani ha scritto anche che un collega dello Spiegel andò al suo posto a fare un servizio quell'anno e l'elicottero cadde e il collega morì. Enzo di Latina: ieri mi hanno predetto che avrebbero letto un mio messaggio in radio. Lorenzo, questa è veramente, Lorenzo, sei proprio l'ultimo dei Moicani. 1999, festa universitaria, cena tra colleghi. Una si rivolge a me e mi dice: tu e lei vi amate. Nemmeno ci conoscevamo. Sto con lei da 11 anni, sposati da 3, abbiamo un meraviglioso bambino da 2. Ciao. Ciao Marco, sono Fabio. Fabio, mi chiamo Matteo. Comunque va bene uguale. Vabbè, questo no, questo lo leggiamo dopo, ok. Una cosiddetta chiromante mi disse che presto avrei vestito una divisa, ma non la classica. Io non pensavo ancora alla leva, anche se ovviamente ero in età militare. Un mese dopo ero in aeronautica. Solo un anno, Solo un anno, Roberto. 800240024 349 238 6666. Vi leggo l'ultimo prima della borsa. Olivia: il mio ginecologo, però i medici non vale, perché i medici, cioè, più che preveggenti la sanno. Però il mio ginecologo mi ha detto: dai retta a me, tu sei una di quelle che rimane incinta a guardare i pantaloni del marito. Sono rimasta incinta del mio primo figlio con la spirale e dopo 3 anni di pillola è bastata una congestione per avere la seconda. Io sono qui. In questa foto siamo in un parcheggio. Ci sono delle macchine parcheggiate, essendo un parcheggio, e c'è la struttura è chiaramente un centro commerciale, una cosa del genere, di quelli, però forse solo supermercato, perché non è di quelli a più piani. Però ha una specie di grande colonna disegnata da qualche architetto. Sapete gli architetti che non sono ancora degli archistar, però studiano per diventarlo, e quindi fanno probabilmente vicino a qualche rotonda in mezzo ad un paese di provincia un centro commerciale che dovrebbe ricordare Lincoln Center, ad esempio. Però la vera protagonista della foto è una punto azzurra, una punto 55 azzurra, che probabilmente casualmente è entrata nell'inquadratura. Marcello Braghieri, 41 anni, mi trovo nel parcheggio di Ipercotta e ti sto ascoltando. Sono notevole ritardo, ma non ci entrerò fino a quando la tua trasmissione non sarà finita. Sono matto? Non lo so. Io sono qui. Marcello, non so se tu sia matto, però questa questione del ogni tanto arrivo ad un parcheggio, spengo la macchina e aspetto che la trasmissione sia finita per sentirla fino alla fine, devo dire, mi lusinga molto, ma non mi convince moltissimo. Cioè, non che non vi creda. Guarda, facciamo così: se c'è qualcuno che è fermo in automobile in questo momento e non scende dall'auto solo perché sta aspettando la fine, mi manda un messaggio, mi dice dov'è, Ok, in auto ce lo diamo per scontato. Però mi dite dove siete in auto e cosa state aspettando di andare a fare. 349-238-6666. Solo quelli che non scendono dall'automobile per sentire come dite di finire il programma. Andiamo con i messaggi. Nicola, estate 2001, Cuba. Una santiera cubana mi dice di stare attento per la salute di mia mamma. Non dice altro. Mi chiede se mia madre stia bene, io rispondo di sì, perché effettivamente stava bene. Al mio rientro la prima telefonata è quella di mia madre che mi comunica di aver fatto una visita di controllo. Mia mamma se n'è andata nel 2006, anche la santera se n'è andata e io le penso tutte e due insieme, anche se non si sono mai conosciute. Ha scritto invece, Armando, la maledetta zingara indovina di Siviglia che in viaggio di nozze ha toccato la pancia di mia moglie dicendo che era incinta. 20 giorni dopo, gravidanza extrauterina. Quando ero alle superiori, entravo in classe la mattina, guardavo i miei compagni e dicevo chi di loro sarebbe stato interrogato nella giornata. Ci ho sempre azzeccato. Mi chiamavano fattucchiera. Marta, io credo che ti avrei ucciso se fossi stata in classe con me. Prima invece mi è arrivato questo messaggio di Fabio, appunto, che mi dice: ciao Marco. Che sono Matteo. Sono Fabio da Biella, un'amica che legge i tarocchi e in ogni cosa che mi ha predetto si è sempre avverato. Un esempio, lavoravo in università di lettere, mi ha detto che in un paio di mesi avrei trovato un lavoro commerciale niente di più lontano dai miei sogni e che lì avrei trovato la donna della mia vita. Risultato? Sono sposato da tre... Facciamocelo dire da lui il risultato. Pronto Fabio? Pronto, ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Dimmi qual è il risultato di questa preveggenza? Il risultato è che da 3 mesi sono sposato con questa ragazza che faccio un lavoro commerciale che proprio non avrei mai sognato di fare. Senti, tra l'altro, dimmi, tua moglie? No, mia moglie l'ho conosciuta nell'ambito di questo lavoro e lei, io sono di Torino, lei è pugliese, quindi vivevamo a 1000 chilometri di distanza, non l'avrei mai conosciuta altrimenti. Senti, dimmi chi è l'amica che legge i tarocchi, è una persona intima o semplicemente dove è capitato? A una festa di quelle? Facciamo? No, leggiamo i tarocchi. È la figlia della signora che mi fa le pulizie, quindi la conosco molto bene e molte volte così gli chiedevo le cose, siccome mi interesso un po' di questi fatti. Da allora però glielo chiedo meno sovente perché vedo che ci azzecca troppo, non vorrei mi dicesse qualcosa di poco piacevole. Ma e questa lo fa di mestiere? No, forse lavora in fabbrica. Anche perché non mi ricordo chi lo dice, Jodorowsky credo lo dica, che in teoria i tarocchi si devono non può diventare un lavoro, mi pare che dica, deve essere semplicemente fatto per il piacere di farlo. Vabbè, ma questo è meno importante. Quindi una volta nella vita azzeccato, Fabio? No, un sacco di altre, questa è la più lampante. No, dico la tua. Ah. Sì. Nel tuo caso, tu le sei fatto predire un'unica volta. No, lei mi ha predetto tante cose. Ah, ci sei abituato, sei abbonato ai tarocchi della figlia della signora che ti fa le pulizie. E ci ha sempre beccato. Mia moglie del lavoro è la più lampante. Va bene, Fabio, ti ringrazio molto. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao. Raffaele da Milano, pronto Raffaele? Sì, ciao. Ciao, devi abbassare la radio se ce la fai. Abbassata subito. Bravissimo, raccontami tutto. Niente, come dall'argomento... No, ti ho perso. Era che... Con lei, no, aspetta un attimo, Raffaele, devi ripartire dall'inizio perché ti ho perso, velocemente, dimmi. Allora, il primo giorno che sono uscito con mia moglie, sì. La prima sera che l'ho invitata fuori a cena, sono uscito con un mio amico che in quel periodo si trovava a Milano, si era trasferito a Milano a vivere, è un amico americano, e alla fine di questo primo incontro, diciamo, con mia moglie, il mio amico mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: tu questa donna te la sposerai. Ed è andata così. Siamo sposati da 11 anni, oggi tra l'altro è il nostro 11° anniversario. Bravo, e te lo sei anche ricordato Raffaele, sei magnifico. Perché oggi è Sant'Ambrogio, in quanto milanese me lo ricordo, e quindi abbiamo scelto questa data per non confonderci poi negli anni successivi. Senti, cosa l'hai regalato per l'11°? Proprio per oggi gli ho regalato un cappello che lei aveva perso qualche tempo fa e che voleva assolutamente riaverlo. Il regalo grosso è stato qualche anno fa, quando è nato il nostro secondo figlio, esattamente il 7 dicembre. Raffaele, auguri a tutte e due, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, alla prossima. Davide mi scrive: qualche mese fa, e mi fa addirittura il dialogo. D: sei sicuro di non avere una fidanzata? R: se l'avessi dovrei quantomeno essere una conoscenza, no? Il giorno dopo su Facebook appare un messaggio: mi sbagliavo, la fidanzata ce l'avevo. Però questa non è preveggenza. Cioè, mi sembra che sei rincoglionito se non sai che c'è la fidanzata. Chiara dalla Spezia, pronto Chiara? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene. Brava, sei in vacanza oggi? Ponte? Sì, ponte, sotto l'acqua ma ponte. Che lavoro fai? Lavoro in banca. Che lavoro fa in banca? Cassa di risparmio della Spezia. No, scusami, volevo sapere se sei allo sportello. No, gestisco le imprese, ho rapporti con le imprese, quindi... Ma non è di questo che vogliamo parlare però, Chiara. No. Dimmi allora. Ascolta, a 16 anni ero in vacanza al mare a Marina di Massa e con mia cugina siamo andate a farci leggere la mano e il tipo mi ha predetto che mi sarei laureata in giurisprudenza. Sì. Avrei fatto un lavoro che non c'entrava niente o comunque non completamente con la mia laurea e che aveva a che fare coi soldi, e in effetti poi è andata così. Mi sarei sposata a 25 anni e mi sono sposata a 25 anni e che a 29 mi sarebbe successo qualcosa che mi avrebbe sconvolto la vita. Io ne ho 28, ne faccio 29 a marzo, quindi... Ah, quindi siamo qui con le dita incrociate, Chiara, mi pare di capire. Cioè... Ripensandoci, visto tutte le cose che si sono avverate, sto aspettando questo compleanno dei 29 anni e i mesi a venire. Senti, ma che cosa potrebbe essere questa cosa che ti ha sconvolto la vita? Non me l'ha detto, mi ha detto che mi sarebbe successa questa cosa che mi avrebbe sconvolto la vita, non mi ha voluto dire niente di più, quindi non so nemmeno se è una cosa bella o meno. Ma senti, tu questo tizio l'hai più rivisto, l'hai più rincontrato? No, assolutamente, non l'ho più rivisto perché è stato... per caso che ci sono andato, perché solitamente non è che così mi faccio leggere le carte o cose di questo genere. Ti dirò di più che passando col tempo poi dopo non mi sono nemmeno più avvicinata a queste cose, nemmeno a quelle tipo su internet, l'oracolo, queste cose qua, perché mi è venuta anche un po' di paura, sinceramente. Beh, ma quindi questa, scusami, più che una il ricordo di una preveggenza è un'ossessione, cioè tu ci stai pensando da parecchio, direi. No, è diventata... C'è un'ossessione, ogni tanto mi viene da pensarci, poi adesso col fatto che si avvicinano i 29 anni... Guarda, Chiara, te la dico io, a 25 anni ti sei sposata, a 29 la cosa che ti sconvolge la vita è che ti nasce un figlio. Ma speriamo! Ok? Se l'ho beccata, mi richiami quando hai fatto il test. Ti auguro una buona giornata, Chiara. Ok, grazie, Matteo. Ciao, stai bene. Andiamo... No, volevo leggere una... lo leggo dopo perché l'ho perso. Andiamo direttamente a Bari da Felice, pronto? Pronto? Ciao Felice, salve. Buongiorno. Ciao Felice, buongiorno a te Matteo. Io chiamavo per agganciarmi al vostro tema. Dimmi. Praticamente a me è successo questo. A 12 anni, io sono di Bari, eravamo dall'altra parte dell'Italia, ero ad Abano Terme con i miei genitori e incontriamo nella hall... Cosa ci facevi ad Abano Terme, scusami Felice? No, eravamo in vacanza lì con i miei genitori, okay. Io piccolino seguivo chiaramente mamma e papà. E praticamente incontriamo una signora che diceva di essere una veggente, o comunque si interessava di queste cose, e la salutammo, io le do la mano, tutto bello educatino, lei mi guarda la mano e mi fa, tu diventerai un chirurgo, io ripeto avevo 12 anni, sì. Io adesso effettivamente ne ho 48, sono medico, sono specializzato in odontoiatria, quindi faccio il dentista, sì. Però mi occupo effettivamente di chirurgia. Questa è una cosa successa 36 anni fa praticamente. E scusami, di questa preveggenza tu quando te ne sei ricordato? Cioè, è una roba che c'hai sempre in mente oppure... No, è una cosa che ora tu parlandone in radio mi hai fatto ritornare, perché ogni tanto questa cosa mi viene fuori quando effettivamente capita, sai, di mettersi guanti, mascherina, cose del genere. E vedete, dico, caspita, vedi, questa signora, e io avevo 12 anni, quindi sai neanche a dire cosa studi, liceo, scuole superiori. Però effettivamente è successa questa cosa e ci ha azzeccato tutto sommato. Felice, ti ringrazio moltissimo e ti auguro un buon 8 di dicembre. Grazie a te, altrettanto, ciao Matteo. Ciao, grazie. Io invece ringrazio quelli che mi scrivono. Ora, io mi devo fidare di voi, perché avevo chiesto se siete in giro, state aspettando di scendere dalla macchina per sentire fine del programma, scrivetemi. Io ti sto ascoltando dal lavoro, va bene lo stesso, più o meno sì. Ciao Matteo, sono allineato e sono un taxista e sto aspettando, e va bene. Sto aspettando una bella ragazza sotto casa sua, sono parcheggiata a Pordenone, aspettando che finisca la trasmissione e poi vado dal mio dietologo, ti ascolto sempre. Ciao Matteo, sono nel parcheggio dell'ospedale, alla fine di un lunghissimo turno festivo, ma non parto finché non finisci. Baci. Io vi ringrazio però soprattutto Luca Rinaldi, Roberto Scaltritti, Tiziano Bonini e tutti quelli che hanno reso possibile la trasmissione anche oggi. A breve creeremo un nuovo profilo Facebook, lo dico alle persone che mi hanno chiesto l'amicizia e che sono in coda, perché purtroppo quel profilo lì è saturo, oltre 5.000 non si può andare, trasferire tutte su Michela Pesca non si può fare, e quindi a breve creeremo un nuovo profilo Facebook per tutti gli altri. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete? Adesso la borsa e più tardi io sono qui. As the winter wind friends, let's enter London with lonely hearts. Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms.